Voi avete ragione, diceva Corinna, Milord, di desiderare che si rimuovano dai soggetti cristiani le immagini dolorose. Esse non vi sono necessarie, ma confessate però che il genio e il genio dell'anima sa trionfare di tutto. Mirate quella comunione di San Girolamo del Domenichino. Il capo del venerabile moribondo è livido e scarno, è la morte che si solleva. Ma in quello sguardo vi è la vita eterna e tutte le miserie del mondo non si scorgono là che per disparire davanti al puro splendore di religioso sentimento. Nonostante ciò, caro Osvaldo, continuava Corinna, sebbene io non sia in tutto del vostro avviso, io voglio mostrarvi che anche essendo di diverso parere vi è sempre tra noi qualche analogia. Io ho cercato quel che voi desiderate nella galleria di quadri che alcuni artefici miei amici mi hanno messo insieme e dei quali io stesso ho abbozzato alcuni disegni. Voi vi osserverete i difetti e i vantaggi dei soggetti pittorici che amate. Questa galleria è a Tivoli, in una mia villa. Il tempo non può essere più bello per fare questa gita. Volete voi che andiamo domani? E siccome Corinna aspettava che Osvaldo vi acconsentisse, così egli le disse: Mia buona amica, potete voi dubitare della mia risposta? Ho forse in questo mondo altra felicità, altra idea, fuori di voi? E la mia vita, che ho esentata forse di troppo da ogni occupazione, egualmente che da ogni interesse, non è unicamente ella dedicata all'avventurosa sorte di ascoltarvi e di vedervi? Partirono dunque il giorno dopo per Tivoli. Osvaldo medesimo guidava i quattro cavalli che li conducevano e gli si compiaceva della rapidità della loro corsa, rapidità che sembra accrescere il sentimento vivace dell'esistenza e questa impressione è ben dolce accanto a colei che si ama. Regolava la carrozza con estrema attenzione per paura che non accadesse a Corinna il minimo sinistro accidente. Egli aveva tutte quelle sollecitudini protettrici che formano il più dolce legame dell'uomo con la donna. Corinna non era, come la maggior parte delle femmine, facile a sbigottirsi per i rischi possibili di un viaggio, ma le era così caro l'osservare le cure di Osvaldo che ella desiderava quasi di avere paura o di essere da lui rincorata. Ciò che procurò, come si vedrà in seguito, un ascendente così grande a Lord Nelvil sul cuore della sua amica, fu un continuo variare inaspettato che dava a tutte le sue maniere di esistere dei vezzi particolari. Tutti ammiravano il suo spirito e la grazia del suo aspetto, ma egli doveva interessare principalmente una persona che, unendo in sé, per singolare combinazione, la costanza e la mobilità, godeva delle impressioni insieme varie e fedeli. Egli ad ogni istante era occupato di Corinna e anche questa occupazione prendeva sempre diversi caratteri. Ora vi dominava la riservatezza, ora la scioltezza, ora una dolcezza perfetta, ora una cruda amarezza che provava la profondità dei sentimenti, ma mescolava il turbamento con la fiducia. E faceva nascere incessabilmente nuovo affetto. Osvaldo, internamente agitato, cercava di contenersi al di fuori e quella che lo amava, intesa a indovinare i suoi segreti, rinveniva in tale mistero continuo interesse. Si sarebbe detto che i difetti medesimi di Osvaldo fossero fatti apposta per dare risalto alle sue grazie. Un uomo, per quanto avesse avuto distinti meriti, ma il cui carattere non avesse offerto né contraddizioni né combattimenti, non si sarebbe mai cattivato in eguale maniera l'immaginazione di Corinna. Ella aveva in qualche modo paura di Osvaldo e questa paura la soggettava a lui. Egli regnava sulla sua anima per un poter buono e per un cattivo, per le sue qualità e per la sua inquietezza che queste qualità mal combinate potevano ispirare. Finalmente non vi era sicurezza nella felicità che derivava da Lord Nelvil, e forse da questo torto medesimo occorre spiegare l'elevatezza della passione di Corinna, e forse ella non poteva amare fino a quel segno se non colui che temeva di perdere. Uno spirito superiore, una sensibilità ugualmente ardente che delicata, potevano stancarsi di tutto. Ad eccezione dell'uomo veramente straordinario, la cui anima, costantemente agitata, poteva paragonarsi al cielo stesso, ora sereno, ora coperto di nuvole. Osvaldo, sempre veritiero, sempre profondo e appassionato, era nulla di meno ogni momento pronto a rinunciare all'oggetto della sua tenerezza, perché lunga abitudine di pene gli faceva supporre che non poteva esservi che rimorsi e tormenti nelle affezioni troppo vivaci del cuore. Lord Nelville e Corinna, nella loro corsa a Tivoli, passarono davanti alle rovine del palazzo di Adriano e del giardino immenso che lo circonda. Questi aveva raccolto in questo giardino le produzioni le più rare, i capolavori più meravigliosi dei paesi conquistati dai Romani. Vi si vedono anche attualmente alcune pietre sparse qua e là che richiamano l'Egitto, l'Indo e l'Asia. Più in lontananza c'era il ritiro dove Zenobia, regina di Palmira, terminò i suoi giorni. Finalmente scoprirono Tivoli, che fu la dimora di tanti uomini celebri, di Bruto, di Augusto, di Mecenate, di Catullo, ma soprattutto la dimora di Orazio, poiché sono i suoi versi che hanno illustrato questo soggiorno. La casa di Corinna era edificata al di sopra della fragorosa cascata del Teverone, sull'alto della montagna. Di rimpetto al suo giardino c'era il tempio della Sibilla. Era una bella idea degli antichi quella di situare i templi sulla vetta dei luoghi elevati. Essi dominavano la campagna come le idee religiose signoreggiano sopra ogni altro pensiero. Ispiravano così maggiore entusiasmo per la natura, ammirando la divinità da cui emana e l'eterna riconoscenza delle generazioni successive verso di lei. La vista del vicino paese, da qualunque punto si considerasse, formava un quadro che si scorgeva là come il centro o l'ornamento di tutto. Quale sito poteva convenire meglio all'abitazione di Corinna in Italia quanto il soggiorno consacrato alla Sibilla, alla memoria di donna animata da ispirazione divina? La casa di Corinna era incantatrice. Era adornata con l'eleganza del gusto moderno e nonostante ciò vi si manifestavano i vezzi di un'immaginazione che è trasportata per le bellezze antiche. Vi si osservava una rara intelligenza di felicità nel senso il più sublime di questa parola, vale a dire nel farla consistere in tutto ciò che nobilita l'anima, eccita i pensieri e vivifica i talenti. Nel passeggiare con Corinna, Osvaldo si accorse che il soffio del vento aveva un suono armonioso e spargeva nell'aria consonanze che parevano venire dal barcollamento dei fiori, dall'agitazione degli alberi e prestare una voce alla natura. Corinna gli disse che erano le arpe eoliche che il vento faceva risuonare e che l'aveva situata in alcune grotte del giardino per riempire l'atmosfera di suoni ugualmente che di profumi. In questo soggiorno delizioso, Osvaldo era ispirato dall'amore il più puro. «Sentite», egli disse a Corinna, «fino a questo giorno ho provato dei rimorsi, essendo felice ai vostri fianchi, ma presentemente io dico a me stesso che è mio padre, il quale vi ha inviata alla mia volta, perché io non soffro più su questa terra. Io lo avevo offeso e nonostante le sue preghiere nel cielo mi hanno ottenuto la grazia». «Corinna», soggiunse esclamando e gettandosi alle sue ginocchia, «mi è stato perdonato, io lo sento alla calma innocente e dolce che regna nella mia anima. Tu puoi senza timore unirti alla mia sorte, nulla vi sarà ormai di fatale». «Ebbene», riprese Corinna, «godiamo ancora per qualche tempo di questa pace del cuore che ci è stata concessa. Non tocchiamo al nostro destino, fa troppa paura quando vogliamo cambiarlo. Quando si procura di ottenere più di quello che ci dà, amico mio, non cambiamo nulla, giacché noi siamo felici». Lord Nelville rimase ferito da questa risposta di Corinna. Egli credeva che ella dovesse comprendere, essere lui pronto a dirle tutto, a prometterle tutto, se in quell'istante ella gli confidava la sua storia. E questa maniera di disimpegnarsene l'offese e gli recò afflizione. Egli non si accorse che un sentimento di delicatezza impediva a Corinna di profittare della commozione di Osvaldo per legarlo con un giuramento. Forse dall'altra parte egli è nella natura di un amore profondo e sincero, lo spaventarsi di un momento decisivo, per quanto sia desiderato, e di non mutare che tremando la speranza nella felicità stessa. Osvaldo, lungi dal formare siffatto giudizio, si persuase che Corinna, nel seguire ad amarlo, desiderasse conservare la sua indipendenza e che allontanasse premurosamente tutto ciò che poteva dar luogo a indissolubile unione. Questo pensiero gli fece provare una dolorosa irritazione e, prendendo subito un'aria fredda e riservata, seguì Corinna nella sua galleria di quadri senza proferire parola. Ella si avvide ben presto dell'impressione che aveva prodotto su di lui, ma conoscendo la sua alterezza non osò di dirgli quel che l'aveva osservato. Tuttavia, mostrandogli i suoi quadri e parlandogli intorno a generali idee, aveva una indeterminata speranza di raddolcirlo, che dava alla sua voce vezzi più interessanti, anche allorquando non pronunciava che parole indifferenti. Mentre Corinna spiegava i suoi quadri a Lord Nelville, ella si era soffermata più volte nella speranza che egli le avrebbe parlato. Ma la sua anima offesa non traspariva per alcuna parola. Solamente ogni volta che le esprimeva un'idea sensibile, egli sospirava e volgeva altrove la testa, finché non vedesse con quanta facilità, nella sua disposizione attuale, si fosse commosso. Corinna, oppressa da questo silenzio, si pose a sedere, coprendosi il viso con le sue mani. Lord Nelville passeggiò qualche tempo con ardore nella camera, quindi si avvicinò a Corinna e fu sul punto di rammaricarsi e di sfogare tutto ciò che provava. Ma un moto di alterezza invincibile nel suo carattere frenò la sua tenerezza e ritornò verso i quadri come se aspettasse che Corinna terminasse di mostrarglieli. Ella sperava molto dall'effetto dell'ultimo di tutti e sforzandosi, ella pure di comparire tranquilla, si alzò e disse: «Mi rimangono ancora tre paesetti da farvi vedere. Due fanno allusione ad alcune idee interessanti. Io non amo molto le scene campestri, che sono noiose e smorte in pittura, come negli idilli, se non fanno qualche allusione alla favola o alla storia. Quel che abbiamo di meglio, per quanto mi pare, in questo genere è la maniera di Salvator Rosa, che rappresenta, come voi vedete in questo quadro, una rupe dei torrenti e degli alberi, senza un solo essere vivente, senza che neppure un semplice volare di uccello richiami l'idea della vita. La privazione dell'uomo in mezzo alla natura eccita profonde riflessioni. Che sarebbe mai questa terra così abbandonata? Opera senza scopo e nonostante opera tanto bella che la sua misteriosa impressione non si indirizzerebbe che alla divinità. Eccovi finalmente i due quadri nei quali, secondo me, la storia e la poesia sono congiunte alle vedute della campagna. Uno rappresenta il momento in cui Cincinnato è invitato dai consoli a lasciare il suo aratro per comandare le armate romane. E voi vedrete in questo paesetto tutto il lusso del mezzogiorno, la sua copiosa vegetazione, un cielo infuocato, l'aria ridente della natura che si scopre anche nella fisionomia delle piante. E quest'altro quadro, che è un contrapposto di quello, è il figlio di Caerbar addormentato sulla tomba di suo padre. Sono 3 giorni e 3 notti che aspetta il bardo che deve prestare i debiti onori alla memoria dei morti. E questo bardo si scorge in lontananza scendere dalla montagna. L'ombra del padre aleggia sulle nuvole. La campagna è coperta di brine gelate, gli alberi, benché spogliati, sono agitati dai venti e i loro rami trascurati e il loro fogliame secco seguono ancora la direzione della tempesta. Osvaldo fino ad allora aveva covato del risentimento relativamente a quanto era accaduto nel giardino, ma all'aspetto di questo quadro gli tornarono in mente la tomba di suo padre e le montagne di Scozia e i suoi occhi si riempirono di lacrime. Corinna prese la sua arpa e dinanzi a questo quadro si mise a cantare scozzesi canzonette, le cui semplici note sembravano accompagnare il sussurro dei venti che gemono nelle vallate. Cantò i saluti del guerriero che lascia la sua patria e la sua innamorata e la parola equivalente a mai più non mora, una delle più armoniose e delle più sensibili della lingua inglese. Corinna la pronunciava con l'espressione la più commovente. Osvaldo non resisté all'affetto che l'opprimeva e l'uno e l'altra si abbandonarono alle lacrime. «Ah!» esclamò Lord Nelville, «questa patria che è la mia! Nulla dice al tuo cuore, Corinna! Mi seguirai tu in questo ritiro, tanto abbondante delle mie ricordanze? Sarai tu la degna compagna della mia vita, come tu ne sei la delizia e l'incanto?» «Io credo», rispose Corinna, «perché vi amo». «In nome dell'amore e della pietà, non mi nascondere più nulla», replicò Osvaldo. «Giacché lo volete», interruppe Corinna, «vi obbedirò. Ho data la mia parola. Non vi metto che una condizione, cioè che voi non mi chiederete di mantenerla prima della prossima epoca delle nostre cerimonie religiose. Sull'istante che per decidersi della mia sorte, l'appoggio del cielo mi è sempre più necessario». «Sia pure», le rispose Lord Nelville, «ma se questa sorte dipende da me, non può mettersi altrimenti in dubbio». «Voi lo credete», ella soggiunse, «ma io non ho la medesima fiducia. Comunque sia, ve ne scongiuro, abbiate per la mia debolezza la condiscendenza che io desidero». Osvaldo sospirò senza accordare né ricusare la dilazione richiesta, senza dire quindi né sì né no. «Partiamo subito», continuò Corinna, «e ritorniamocene alla città. Come tacervi nulla in questa solitudine? E se ciò che devo dirvi dovesse staccarvi da me, bisognerebbe egli che si presto. Partiamo, Osvaldo, voi ritornerete qui, qualunque cosa accada. Qui saranno depositate le mie ceneri». Osvaldo, intenerito, turbato, obbedì a Corinna. Ritornò con lei, ne parlarono durante il viaggio quasi mai. Di tempo in tempo si guardavano con un'affezione che diceva tutto, ma nonostante regnava nel fondo della loro anima un sentimento di malinconia quando giunsero in mezzo a Roma. Libro IX. La festa popolare e la musica. Capitolo I. Era il giorno della festa la più rumorosa dell'anno. Alla fine del carnevale, allorquando il popolo romano è assalito come da una febbre di gioia, come da un furore di passatempi, del che non si trova altrove nessun altro esempio. Tutta la città è mascherata. Appena vi rimangono alle finestre spettatori senza maschera per osservare coloro che l'hanno. E questa allegria comincia in un tal giorno determinato, senza che gli avvenimenti pubblici o privati impediscano quasi mai ad alcuno il divertirsi in quell'epoca. In questa circostanza si può giudicare di tutta l'immaginazione della plebe. L'italiano è pieno di vezzi anche nelle parole. Alfieri diceva che andava in Firenze nel pubblico mercato per imparare il buon italiano. Roma ha lo stesso vantaggio e queste due città sono forse le sole nel mondo dove il popolo parla così bene che ad ogni cantonata può rinvenire lo spirito, la maniera di ricrearsi. Quella piacevolezza che brilla negli autori delle arlecchinate e delle opere buffe si trova oltre ogni credere comune, anche tra gli uomini senza educazione. In questi giorni di carnevale, in cui sono permesse le singolarità e le caricature, accadono tra le maschere le più divertenti scene. Sovente una gravità grottesca in opposizione con la vivacità degli italiani, e si direbbe che i vestiti bizzarri ispirano una dignità che non è loro naturale. Altre volte fanno vedere tanto singolare cognizione della mitologia nei travestimenti coi quali si aggiustano che si crederebbe che le antiche favole fossero tuttora popolari in Roma. Più spesso si burlano delle diverse classi della società con buffonerie piene di originalità e di forza. La nazione pare che si distingua mille volte più nei suoi sollazzi che nella sua storia. La lingua italiana si presta a tutte le gradazioni del brio con tale felicità che si richiede una semplice flessione di voce e una desinenza un poco diversa per accrescere o diminuire, nobilitare o travestire il senso delle parole. Corinna e Lord Nelville arrivarono a Roma, tutti e due pensierosi, in mezzo al tumulto. Ne rimasero sulle prime storditi, poiché non sembra esservi cosa più singolare dell'attività nei piaceri rumorosi, quando l'anima è interamente raccolta in se stessa. Si fermarono sulla piazza del popolo per salire sull'anfiteatro vicino all'obelisco, da dove si vedeva la corsa dei cavalli. Nel momento in cui scendevano dal loro legno, li vide il conte d'Erfeuil, che prese in disparte Osvaldo per parlargli. «Non sta bene», gli disse, «che vi facciate vedere così pubblicamente, venendo solo dalla campagna con Corinna. La compromettete, e dopo che ne farete voi?» «Io non credo», rispose Lord Nelville, «di compromettere Corinna, mostrando l'attaccamento che la mi ispira. Ma se questo fosse vero, io sarei troppo felice che l'oblazione della vita... Ah, quanto all'essere felice!» Interruppe il conte d'Erfeuil, «non ne sono niente persuaso. Non si è felice che mediante ciò che è convenevole. La società, per quanto si faccia, ha molto impero sulla felicità e non bisogna fare mai quello che essa non approva. Si vivrebbe dunque sempre per ciò che dicesse di noi la società», riprese Osvaldo, «e ciò che si pensa e ciò che si sente non ci servirebbe mai di guida? Se la cosa fosse così... Se ci dovessimo costantemente imitare l'un l'altro, a che gioverebbe un'anima e uno spirito per ciascuno? Capitolo 2. Osvaldo, dopo la sua disgrazia, non aveva avuto ancora il coraggio di sentire della musica. Quando Corinna cantava, Osvaldo ascoltava le parole che la pronunciava, contemplava l'espressione del suo volto e si occupava unicamente di lei, ma se nella sera si univano per le strade più voci, come accade sovente in Italia, per cantare le belle arie dei grandi maestri, egli tentava in principio di fermarsi, per sentire, e poi si allontanava di là perché una commozione così vivace e nello stesso tempo così vaga gli rinnovava tutta la sua tristezza. Frattanto si doveva dare in Roma, nel teatro, una superba accademia a cui dovevano intervenire i primari cantanti. Corinna impegnò Lord Nelville ad andarvi in sua compagnia ed egli vi acconsentì, sperando che la presenza di colei che amava spargesse di dolcezza tutto ciò che avrebbe potuto soffrire. Nell'entrare nel suo palchetto Corinna fu subito riconosciuta e la memoria del Campidoglio, accrescendo l'interesse che ella ispirava per ordinario, la sala rimbombò di applausi al suo arrivo. Da tutte le parti si gridò «Evviva Corinna!» e quelli pure dell'orchestra, elettrizzati da questo movimento generale, si misero a suonare concerti di vittorie, poiché il trionfo, di qualunque sorte sia, risveglia sempre negli uomini la memoria della guerra e dei combattimenti. Corinna rimase vivamente commossa da queste testimonianze universali di ammirazione e di benevolenza. La musica, gli applausi, i bravo e quell'impressione indefinibile che produce sempre una grande moltitudine di uomini quando esprimono uno stesso sentimento. Le cagionarono profonda tenerezza che ella cercava di frenare, ma i suoi occhi si riempirono di lacrime e la palpitazione del cuore le sollevava i veli sul seno. Osvaldo ne sentì gelosia e avvicinandosi a lei le disse a voce bassa «Non bisogna, signora, togliervi a questi lusinghieri applausi. Essi equivalgono all'amore poiché vi fanno palpitare il cuore in tal guisa». E nel finire queste parole andò a sedersi all'estremità del palchetto di Corinna senza aspettare la sua risposta. Ella fu crudelmente disturbata da quanto intese ed egli le involò tutto il piacere che aveva provato in tale trionfo di cui gradiva che gli fosse stato testimonio. E cominciò l'Accademia. Chi non ha sentito il canto italiano non può avere l'idea della musica. Le voci in Italia hanno quella mollezza e quella grazia che rappresentano allo spirito il profumo dei fiori e la purità del cielo. La natura ha destinato questa musica per cotale clima, l'una è come un riflesso dell'altro, il tutto è l'opera di un solo pensiero che si esprime sotto mille forme diverse. Gli italiani sono dei secoli che amano la musica con trasporto. Dante nel Purgatorio incontra uno dei migliori cantori del suo tempo, lo richiede in una delle sue arie voluttuose e le anime stupefatte vanno in estasi nell'ascoltarlo, finché il loro guardiano non le richiama. Osvaldo era stato ostinatamente distante da Corinna per tutta la prima parte della musica, ma quando cominciò il duetto, quasi sottovoce e accompagnato dagli strumenti a fiato che facevano sentire i suoni più puri, anche della voce medesima, Corinna si coprì il viso col fazzoletto e la sua commozione l'assorbì interamente. Ella piangeva senza soffrire nulla e amava senza nulla temere. L'immagine di Osvaldo era indubitamente presente al suo cuore, ma l'entusiasmo, il più nobile, si mischiava con questa immagine e pensieri confusi erravano in folla nella sua anima. Sarebbe stato necessario limitare questi pensieri per renderli distinti. Si dice che un profeta nello spazio di un minuto corse per 7 regioni differenti dei cieli. Osvaldo ne sentì pure la potenza. Il suo sdegno a grado si calmò, la tenerezza di Corinna spiegò tutto, giustificò tutto, egli le si avvicinò adagio adagio e Corinna lo intese respirare accanto a sé nel momento il più incantatore di quella musica celeste. Era anche troppo. La tragedia, la più patetica, non avrebbe eccitato nel suo cuore tanto turbamento quanto quel sentimento intimo dell'effetto profondo che li penetrava tutti e due nello stesso tempo e che era sublimato sempre più da ogni istante e da ogni nuovo suono. «Oh, andiamocene», disse Corinna a Lord Nelvil. «Mi sento svenire». «Che avete mai?» le rispose tutto inquieto. «Voi impallidite! Oh, venite all'aria con me, venite, vi prego!» E uscirono insieme. Corinna si sosteneva sulle braccia di Osvaldo e sentiva nell'appoggiarsi a lui di recuperare le sue forze. Si avvicinarono ambedue a un balcone. Corinna, vivamente commossa, disse al suo amico: «Caro Osvaldo, io vi lascio per 8 giorni». «Che dite voi?» rispose interrompendola. «Ogni anno», ella continuò, «all'avvicinarsi della Settimana Santa, io vado a passare qualche giorno in un monastero di religiose per prepararmi alla solennità della Pasqua». Osvaldo non si oppose a quest'idea. Sapeva che in quell'epoca la maggior parte delle dame romane si davano in braccio alle pratiche le più austere, senza che per questo si occupassero con moltissima serietà della religione nel restante dell'anno. Ma egli si ricordò che Corinna professava un culto diverso dal suo e che non potevano pregare insieme. «Perché non siete voi?» egli esclamò. «Della mia medesima religione, del mio paese medesimo». E poi si fermò dopo aver esternato questo suo desiderio. «La nostra anima e il nostro spirito non hanno forse la medesima patria?» rispose Corinna. «È vero», replicò Osvaldo, «ma non per questo diviene per me meno doloroso tutto ciò che ci divide». E quella lontananza di 8 giorni gli stringeva talmente il cuore che gli amici di Corinna, essendo venuti a trovarla, egli non proferì più una sola parola per tutta la sera. Capitolo 3. Osvaldo andò il giorno dopo di buon'ora da Corinna, turbato assai per ciò che ella aveva detto. La sua cameriera gli venne incontro e gli consegnò un biglietto della sua padrona con cui gli significava che la si era ritirata in convento in quella stessa mattina, del che lo aveva prevenuto e che ella non lo rivedrebbe che dopo il venerdì santo. Ella gli confessava di non avere avuto il coraggio di dirgli la vigilia che si allontanava da lui il giorno seguente. Osvaldo rimase sbalordito come da un colpo inaspettato. Quella casa in cui aveva veduto sempre Corinna e che era divenuta tanto solitaria gli fece la più dolorosa impressione. Vedeva in un canto la sua arpa, i suoi libri, i suoi disegni, tutto ciò che la circondava abitualmente, ma lei non v'era più. Un tremito tormentoso si impossessò di Osvaldo. Si rammentò la camera di suo padre. E fu costretto di porsi a sedere poiché non poteva sostenersi altrimenti. «Si potrebbe dare dunque», esclamò, «che io sapessi nella stessa maniera la sua perdita, quello spirito tanto animato, quale cuore si vivo, quel volto così brillante di freschezza e di vita potrebbero essere colpiti dal fulmine, e la tomba della gioventù sarebbe in tale modo muta quanto quella dei vecchi». Ah, quale illusione, mai la felicità. È un momento involato a quel tempo inesorabile che veglia sempre sulla sua preda. Corinna, Corinna, non bisognava abbandonarmi. Erano le vostre attrattive che mi impedivano di riflettere. Tutto si confondeva nel mio pensiero. Tanto io ero incantato dagli istanti avventurosi che passavo con voi. Ed eccomi adesso solo. Ora ritrovo me e tutte le mie ferite vanno a riaprirsi.